Certe cose si fanno in due, tre, quattro. Rubato di da per tutta la vita. Nostalgia di quello che mi facevi tu. Rubato di da, lascia che ti dica che non va via il tuo profumo dai pensieri. Pronto come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia? Tutto bene, ma lasciare il cielo in una stanza. La bandita per tutta la vita. Nostalgia di quello che mi facevi. Sarà perché ti amo. Che confusione. Un sabato italiano fuori dal balcone con le signore. Parlare di noi come in un vecchio film. Come Pink Floyd vorrei tu fossi qui. Cuore graffiato come su un CD. Tipo quando salta, salta, salta, salta. È colpa mia, è colpa tua, non è importante, certe cose si fanno in due, tre, quattro. Rubato di da per tutta la vita, nostalgia di quello che mi facevi tu. Rubato di da, lascia che ti dica che non va via il tuo profumo dai pensieri. Pronto come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia? Tutto bene, ma ho in testa una domanda. Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza. Connotate sopra una banda. Ho una compilation d'amore per te. Non mi basterà una canzone.